Un buongiorno a Francesca Magnini e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Grazie. Allora, Francesca, siamo qui un po' per parlare del progetto Mercolello. Ci puoi raccontare come nasce questo progetto e di che cosa vi occupate? Sì, allora, grazie mille per questa opportunità. Allora, Mercolello è un progetto di laboratori di libera creatività per bambine e bambini. Nasce nel 2018, grazie da una parte alla disponibilità di spazi del Centro Sociale della Pace, che è in Via del Pratello, e anche grazie all'incontro di alcune artiste di zona, appunto, che appunto, ci siamo trovate accomunate, diciamo, da alcuni valori fondamentali e anche da un occhio critico su Via del Pratello. Per cui, diciamo che la nostra critica a Via del Pratello è quella che appunto da una via storica di lotta e resistenza e grande attivismo è diventata una via dedicata unicamente ai bar e ai ristoranti. Quindi, insomma, abbiamo scelto anche Via del Pratello anche per questo. Assolutamente d'accordo, se posso dire. Avete già iniziato a sviluppare qualche progetto durante questo periodo di lockdown? C'è qualcosa che vi ha tenuto occupate? Sì, allora, prima del lockdown, quindi dal 2018 fino al 2020, abbiamo organizzato un laboratorio alla settimana perché appunto Mercolello è l'unione di due parole, mercoledì al pratello. Poi il nome in realtà ha un'assonanza con il termine Lella, che appartiene al mondo gay, lesbico e ce lo rivendichiamo, nel senso che appunto tra noi ci chiamiamo le Mercolelle, anche se non tutti. Insomma, siamo lesbiche o omosessuali, però ci piace sottolineare appunto i nostri valori che sono comunque l'antisessismo, l'antifascismo e l'antirazzismo, quindi appunto rivendichiamo questa assonanza. E dunque ti dicevo, quindi dal 2018 fino al 2020 abbiamo organizzato un laboratorio alla settimana con una tematica mensile, per cui quattro laboratori durante il mese avevano la stessa tematica per dare una continuità. E abbiamo stretto delle collaborazioni con delle artiste di zona, per cui abbiamo fatto serigrafia, timbri, yoga, acquerello e vari altri laboratori creativi. Diciamo, quello che vorrei sottolineare, la caratteristica un po' unica del Mercolello è che non è un laboratorio direttivo, per cui noi ci vogliamo un po' differenziare dai laboratori che il Comune di Bologna offre in tantissimi luoghi, anche gratuitamente. Noi diciamo che ci definiamo le piratesse dei laboratori, per cui i nostri laboratori si incentrano sulla collaborazione, sull'imparare facendo e sull'età mista, in cui i bambini e le bambine si possono scambiare le competenze. E abbiamo anche raggiunto questo risultato dopo 2 anni di laboratori perché abbiamo creato i bambini un giornalino, di cui adesso c'è solo il primo numero, e c'è stato anche un mercoledì autogestito dai partecipanti al laboratorio, quindi siamo state molto, molto contente di questo risultato. E durante il lockdown abbiamo fatto delle letture online in collaborazione col Fratello Resiste, per cui l'anno scorso abbiamo letto Il Partigiano Lampo, quest'anno Fulmine, un cane coraggioso, che è appunto un cane partigiano, e poi abbiamo fatto una lettura in 10 puntate, Il Brigante Penna Storta, e anche abbiamo attivato una collaborazione con Atelier Sottosopra, un atelier di Milano che appunto ha proposto dei laboratori online, quindi abbiamo cercato di essere comunque attive anche durante la chiusura del centro. Oggi farete anche il vostro primo evento, diciamo, in presenza, proprio oggi, mercoledì 21 aprile. In che cosa consiste, Francesca? Ce lo puoi raccontare? Sì, allora, oggi infatti sarà il nostro primo spettacolo di burattini, attori e pupazzi, completamente autoprodotto e di scrittura originale, quindi è tutta farina del nostro sacco. Faremo Cappuccetto Rosso Partigiano in occasione del 21 aprile, in cui si celebra la liberazione di Bologna dal nazifascismo. E appunto questo spettacolo è organizzato in collaborazione col Fratello Resiste e lo faremo ai Giardini Otello Bignami, che si entra da Via San Rocco alle 18 e diciamo che è uno spettacolo semistorico perché si rifà ad alcuni eventi storici, quindi abbiamo Cappuccetto Rosso sarà in bicicletta come le staffette partigiane e il lupo sarà Cisco, quindi lupo è il suo nome, sarà un brigante, diciamo, che aiuterà Cappuccetto Rosso. E non vi voglio svelare troppo, e vorrei ricordare di venire con mascherine e gel disinfettante all'interno del parchetto, che è abbastanza piccolo, manterremo comunque le distanze di sicurezza, visto che comunque appunto siamo ancora in un momento di lockdown. Perfetto Francesca, io ti ringrazio, in bocca al lupo per l'evento di oggi pomeriggio. Grazie. Grazie, a risentirci.